notte, splendida notte, lascia cadere una stella. Lascia che insegni ai miei figli che non c'è cosa più bella di essere veri, di avere uno spirito puro, piedi piantati per terra e lo sguardo al futuro. Notte, splendida notte, porta consiglio, fosse anche un fiato di vento, fosse solo un bisbiglio, quanto coraggio ci vuole a seguire un miraggio per questo cuore migrante che inizia il suo viaggio. Ali di libertà per domani ancora incerto. Notte che lasci il tuo posto ad un nuovo giorno. Partire è sempre difficile senza un ritorno. Quanta speranza ci vuole a intraprendere un viaggio lontano da un mondo che a volte ci tiene in ostaggio. Ali di libertà per via.